5H. Ascolta e rispondi. A che ora esci dall'ufficio? Ne esco a mezzogiorno. Quando partirai dall'Italia? Ne partirò fra un mese. Dove scenderete dal treno? Ne scenderemo alla stazione di Roma. Quando sei tornata dall'estero? Ne sono tornata l'anno scorso. Stai venendo dallo stadio? Ne sto venendo proprio ora. Quando è evaso dal carcere il criminale? Ne è evaso pochi giorni fa.